Uno, due, tre. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci, sono le 7:19 minuti, pronti a leggere i giornali. I giornali che, voglio dire, anche per loro è lunedì, e quindi si inizia la settimana un po' stancamente. Vi ricordo il tema di che affronteremo oggi, è un ritorno in realtà. Torneremo a parlare di quel metodo che sta facendo molto discutere, il metodo Stamina. Nella scorsa settimana c'è stato il sì, il via libera definitiva del Parlamento per la sperimentazione di questo metodo che dicono i suoi scopritori è un metodo rivoluzionario per guarire anche malattie molto gravi. La comunità scientifica duramente ha risposto, ma sono a tutte illusioni. Ora ci sarà una sperimentazione di 18 mesi per capire se si tratta di un nuovo caso anche di Bella. Vi ricordate la controversa cura sul tumore? E ne parleremo con intanto Davide Vannoni, che è il presidente della Stamina Foundation. Parla con noi insieme al professor Remuzzi, si confronteranno due posizioni ben diverse: da una parte appunto il presidente della Stamina Foundation, dall'altra Giuseppe Remuzzi, che è uno degli scienziati più critici nei confronti di questo metodo. Ne parleremo dalle 8:15. Ora che cosa scopriamo dai giornali? Andiamo a sfogliarli. È lunedì 27 maggio, intanto i titoli, il Sole 24 Ore apre: fisco semplice al traguardo, ora tocca lavoro e imprese. Il Corriere della Sera invece: piano italiano per la crescita, investimenti su lavoro e giovani, si tratta con l'Europa. La Stampa: Unione Europea via libera da 12 miliardi, è attesa per mercoledì la fuoriuscita dell'Italia dalla procedura di infrazione per aver sforato il rapporto deficit-PIL. Il Giornale: ci vogliono morti di tasse, i diktat dell'Europa. La Repubblica invece, qui andiamo sulla politica, ci sono le urne aperte, c'è l'affluenza, l'unico dato che si può per il momento dire, l'affluenza che è crollata. Crolla l'affluenza, il picco a Roma. Questa è l'apertura di Repubblica, anche per il Messaggero, ovviamente quotidiano molto attento a quello che succederà, soprattutto con l'elezione al sindaco di Roma. Roma, affluenza picco, questo è il titolo di prima pagina del Messaggero. Per il secolo XIX comuni crolla l'affluenza, e anche l'Unità: elezioni, allarme, astensione. Questi alcuni dei titoli delle aperture. Io però voglio partire dai tanti resoconti che ci sono per questa terribile notizia di cronaca che viene da Corigliano in provincia di Cosenza, l'ennesimo femminicidio, così vengono definiti. Questa volta i racconti che sono anche a corollario di una foto che trovate, la foto di Fabiana Luzzi che trovate su tutte le prime pagine dei giornali, 16 anni, uccisa prima coltellata e poi bruciata quando era ancora viva dal cosiddetto fidanzatino, ovviamente tra migliaia di virgolette, anche lui minorenne, seppure per pochi mesi. E sono tantissimi racconti. Io vi propongo ciò che scrive Goffredo Buccini, inviato del Corriere della Sera a Corigliano per l'appunto. Fabiana mi chiedeva di non farlo, era viva quando le ho dato fuoco. Così a pagina 18 e 19 scrive Buccini: in mezzo al tratturo c'è una macchia di sangue, ora segnalata dal cartellino numero 1. Qui si sono fermati con motorino dopo la scuola. Vieni con me, adesso chiariamo, amore mio, adesso parliamo. Qui forse lei lo ha insultato, non voleva più saperne di tornarci insieme. Lasciami in pace, capito? Forse l'ha schiaffeggiato per difendersi e lui l'ha accoltellata. 7 fendenti, nessuno mortale. Qui dove c'è il cartellino lei è caduta, nella polvere ecco i segni del corpo trascinato, 17 metri e mezzo fino al fico che fa ombra sul muretto d'angolo. E qui lui l'ha lasciata tra i rovi a dissanguarsi. Qualcuno passando avrebbe potuto persino salvarla, ma era controra piena. Chi vuoi che attraversi dopo pranzo questo viottolo sterrato in contrada Chiubica, alle porte del paese nuovo, sotto le pendici della rocca storica di Corigliano? Così è rimasta quasi un'ora la piccola Fabiana Luzzi. 10 anni di danza classica, un portento a ragioneria, 3 sorelle che l'adoravano, 16 anni da compiere il 13 giugno, un'ora infinita lì ad aspettare che tornasse il suo boia. Lui, 18 anni li farà ad agosto, dunque siamo costretti a coprirlo con le iniziali D.M. Nei titoli di giornali lo chiamano il fidanzatino. Ogni tanto le cronache ci consegnano questi mostri, veri o presunti, vezzeggiati da diminutivi incongri. L'assassinino, scrissero una volta di un famoso biondino, poi assolto ora di nuovo sulla graticola. E poi è tornato, appunto. Mi sono fermato all'Agip, dice lui nel racconto dei carabinieri. Ho riempito una tanica di 20 litri, sono tornato indietro, volevo incendiare il corpo, ma lei era ancora viva, mi insultava ancora, bastardo, mi diceva, le ho versato la benzina addosso, ho dato fuoco. Lei strillava, non farlo. Io mi sono scottato mani e faccia, ho buttato borsette e cellulare tra i fichi d'India, pure il coltello, sono andato in ospedale a farmi medicare, mi sono inventato le storie che vi ho raccontato prima, ma è tutto falso, l'ho ammazzata io Fabiana, però l'amavo, eravamo gelosi, tanto». Ecco, questo è il racconto, l'orrore, come scrive Buccini, in questo lembo di Calabria, dove i carabinieri fanno continue operazioni antidroga, l'andrangheta rinasce ogni volta come la fenice, sta qui in tutto, qui, nelle confessioni del fidanzatino. Fidanzatino è scritto in corsivo, come dire, lo chiamano così. Sabato notte, con la gente fuori dalla caserma che premeva, datecelo e lo mettiamo in un bidone a rosolare. Ecco, ci saranno tanti racconti, adesso ci sono già racconti di sociologi, racconti di psicologi, racconti di medici, c'è sempre sul Corriere della Sera, pagina 19, per esempio la teoria di un libro uscito in Inghilterra, uno studio che contiene relazioni di psicologi che hanno seguito e analizzato 104 detenuti per reati connessi al femminicidio che raccontano che nella mente di questi uomini violenti ci sarebbe qualcosa di diverso dagli uomini cosiddetti normali. Ripeto, io quando leggo poi queste cose mi fermo, mi limito alla cronaca, insomma, questi racconti, queste analisi poi fatte magari a centinaia di chilometri di distanza, nessuno conosce la realtà, che ogni volta è una realtà singola, diversa, peculiare, specifica. Certo, fa molto specie leggere anche sulla stampa, nel racconto di Niccolò Zancana, pagina 11, in paese tutti sapevano, nessuno l'ha salvata, Corigliano ora sotto shock, è assurdo, non doveva finire così, ma raccontano di botte continue, raccontano di lividi che la ragazza aveva sempre, tanto che il padre della ragazza aveva convocato più volte nel negozio di autoricambi il cosiddetto fidanzatino, intimandogli lasciala stare, è piccola, ti prego, cosa diavolo stai facendo? E come risposta un anno fa Davide l'aveva presa e portata fino a Bologna, una settimana di fuga per far intendere chi comandava. Anche su Repubblica, due pagine, il killer confessa ma non si pente, Fabiana mi supplicava non farlo, quando le ho dato fuoco era viva. Certo, c'è anche la reazione della folla, ammazzatelo, datelo a noi, scene viste e già viste di questa ennesima tragedia che viene raccontata da Corigliano Calabro a tutti i giornali. E ho voluto iniziare così, le foto poi le trovate, le foto di Fabiana, ogni giornale le mette in prima pagina. La politica, beh certo, ci sono le urne, le amministrative che sono tra l'altro riaperte questa mattina, no? E quindi non si può dire granché se non la questione dell'affluenza, chiudono poi alle urne, alle 15. L'affluenza, beh, è un caso, come racconta il Corriere della Sera. A Roma un calo verticale, Roma è la città sui cui i riflettori ovviamente sono soprattutto puntati. Certo si racconta anche dell'effetto derby sulla capitale, ieri c'era Roma-Lazio di finale di Coppa Italia e dunque probabilmente molte persone non sono andate a votare, sono andate allo stadio, forse avranno tempo fino alle 15 di oggi. Comunque perde 20 punti rispetto alle precedenti amministrative, il dato del voto nel 2008 la domenica era il 60%, ora attorno al 44%, e dunque quasi 20 punti percentuali. L'avversario più temuto dei partiti puntualmente si è presentato alle urne fin dall'apertura dei seggi in tutta Italia per le elezioni amministrative, il crollo dell'affluenza, così racconta il Corriere della Sera pagina 4. Anche per il giornale Lettori in sciopero, crollo record a Roma, l'affluenza giù del 20%. Chi l'avrebbe mai detto, no? Che gli italiani dimostrano un po' di sfiducia nei confronti della politica. Beh, chiaramente il Messaggero, giornale molto diffuso soprattutto a Roma, mette in prima pagina questo titolo: Roma affluenza a picco, c'è il racconto delle amministrative, il crollo record nella capitale alle urne per il sindaco, sono 19,5% in realtà le percentuali perse rispetto alle precedenti votazioni. C'è anche il racconto di Maria Lombardi a pagina 3. Certo, forse ha scoraggiato molti elettori anche la maxi scheda da 1,20 m, come racconta per esempio Mario, che hai votato, questo in un seggio del testaccio, aga, vattela piglia in saccoccia, mi sono trovato davanti quel tabernacolo, tutti e due in cabina, non c'entravamo, cioè questo elettore e la scheda, tutti e due in cabina, non c'entravamo, non ci ho capito niente, mi giravano gli occhi, ho chiuso e non ho votato nessuno. Così racconta un rappresentante di lista al seggio di via Alessandro Volta al testaccio, dispiaciuto per l'amico, poverino, anziano, si è confuso, ha 78 anni. Beh certo, forse ci sono state molte proteste, racconta i presidenti di seggio, a spiegare, a raccogliere lamentele, a invitare gli elettori a tornare in cabina, a piegare bene e piegare meglio questa lenzuolata da 1,20 m. E d'altronde con tutti i candidati sindaci così si doveva fare. Molti hanno rinunciato e non hanno capito niente, oppure addirittura dicono hanno fatto errori clamorosi. Immaginatevi esattamente delle persone anziane che si trovano di fronte a una scheda elettorale da 1,20 m, che fanno? E molti di loro infatti o hanno sbagliato o hanno addirittura rinunciato. Vabbè, comunque dalle 15 di oggi poi tutti i risultati saranno su Radio 24 e ne parleremo anche noi ovviamente domani. Per il momento quello che si può raccontare è appunto il crollo dell'affluenza, le urne sono aperte, si può votare fino alle 15. Certo, secondo Repubblica già cresce la preoccupazione, c'è un retroscena, un racconto di Francesco Bei che inizia in prima pagina di Repubblica. Il titolo dell'articolo di Francesco Bei che segue poi all'interno è: a Palazzo Chigi cresce la preoccupazione, daranno comunque la colpa al governo. La paura cresce con le ore, nessuno sa cosa possa risalire da quel pozzo nero in cui è precipitata l'affluenza, soprattutto a Roma, un crollo inimmaginabile capace di ribaltare pronostici troppo ottimistici, una caduta verticale della partecipazione. Così nell'inizio dell'articolo di Bei, che ha gettato questa mancata partecipazione ha gettato nello sconforto i responsabili dei partiti di maggioranza e suscitato anche apprensione nel Quirinale. E di questi tempi tutto viene scaricato sul governo, sospira preoccupato un ministro di peso. A temere più di tutti le conseguenze della disaffezione dei romani è proprio il premier Enrico Letta, nonostante l'intesa stretta con Alfano per tenere Palazzo Chigi al riparo dagli effetti del dopo voto. Se dovessimo perdere la sfida delle città, così è il ragionamento che il premier ha fatto in questi giorni, si aprirebbe un periodo di turbolenza pericolosa e proprio nel momento più delicato. Perché? Beh certo, questa tenuta politica, d'altronde in Italia si vota ogni 6 mesi, si vota qualcosa, il timore di un insuccesso in qualche modo elettorale in questo momento è ciò che Enrico Letta teme di più. E quale momento? Beh, il momento è quello della trattativa delicata con l'Europa. Come raccontano tutti i giornali, tra 2 giorni l'Europa dovrà decidere, e ormai è abbastanza certo che deciderà in senso positivo per l'Italia, l'annuncio di farci uscire dalla procedura di infrazione per deficit eccessivo avviata nell'ottobre del 2009, cioè quasi 4 anni fa. E questa è una decisione, pare quasi automatica. Allora il rapporto tra deficit e PIL e prodotto interno lordo era al 5,3%, il massimo fissato dalle soglie europee il 3%. Siamo rientrati o stiamo rientrando con un lungo percorso che viene stimato adesso il rapporto attorno appunto al 3% del 2012, si è assestato, racconta il Corriere della Sera per il momento, per esempio a pagina 2 con Luigi Offeddu, si è assestato il rapporto deficit PIL a 2,9% nel 2013, dunque siamo rientrati nei parametri europei e dunque tra 2 giorni la Commissione europea proporrà appunto che il nostro paese esca da questa procedura di infrazione. Ecco, in questo momento decisivo, importante, per rientrare, riequilibrare i conti, per ottenere anche un via libera positivo da parte dell'Europa, è chiaro che, scrive Repubblica, Ricoletta teme che l'assestamento possa essere messo in crisi con una sconfitta elettorale. Comunque, sul deficit italiano in regola, tutti i giornali ne scrivono, a pagina 2 il Corriere della Sera, ora l'Unione Europea chiede le riforme. C'è un retroscena a pagina 3 del Corriere con Enrico Marro: finalmente una buona notizia per il paese. Questa sarebbe la reazione del presidente del Consiglio Enrico Letta, che tira un sospiro di sollievo per la decisione della Commissione Europea di far uscire l'Italia dalla procedura di deficit eccessivo. Chiaramente è una decisione che verrà presa ufficialmente mercoledì, ma è chiaro che ormai tutto lascia supporre che ci sarà questa scelta, tanto che il ministro Del Rio, in un'intervista a La Stampa, si spinge anche oltre. Chiusa la procedura di infrazione, potremo spendere fino a 12 miliardi di euro. Che viene da dire? Ma come? Proprio abbiamo sforato il deficit al 5-9% proprio anche per la spesa. Vabbè, comunque, così spiega in questa intervista il ministro Del Rio, intervistato da Carlo Bertini, a pagina 3 trovate l'intervista. Dietro questo risultato ci sono un lavoro, una serie di sacrifici che vengono da lontano, e l'azione del Premier è stata efficace. Così Graziano Del Rio, che è il ministro degli affari regionali, soddisfatto della buona notizia in arrivo dall'Europa. Il governo ha dato dimostrazione che siamo seri e affidabili. Quale tesoretto si sbloccherà ora? Questa è la domanda. Solo la chiusura della procedura ci permette un margine di spesa tra i 7 e i 10 miliardi di euro, 12 nelle previsioni più ottimistiche. Significa che nel 2014 avremmo un deficit dello 0,5 in più rispetto all'1,8% nominale. E come verrà speso questo tesoretto? Chiede La Stampa al ministro Del Rio. Beh, abbiamo detto che la priorità è il lavoro ai giovani, l'altra è la casa, ad esempio gli oneri per spalmare in 10 anni il bonus energia e il 55% dello sconto per le ristrutturazioni edilizie valgono circa 2 miliardi. Sul tema casa c'è la ridiscussione della fiscalità, cioè la riforma dell'IMU, e per il lavoro ci muoveremo sugli investimenti. Si possono mobilitare risorse molto superiori ai 7 miliardi di cui si parla, fino a 10-12 miliardi. Torna Del Rio anche su invece l'ipotesi di aumento dell'IVA a luglio, che incombe sempre, e dice Del Rio alla domanda: è d'accordo con Epifani che va evitato l'aumento dell'IVA piuttosto che destinare tutte le risorse al rimborso dell'IMU? Risponde il ministro Del Rio: il problema è che sarà difficile trovare le risorse per tutto, oltre a quelle di cui si parla ancora più prioritario trovare le risorse per sbloccare gli investimenti del patto di stabilità. Insomma, sulla questione dell'IVA ancora vedremo. Anche il Messaggero con Barbara Corrao racconta a pagina 5: sbloccato un tesoretto da 7-8 miliardi, ecco le priorità quando arriverà ovviamente mercoledì la decisione dell'Europa. Per Repubblica, anche i conti pubblici, l'Europa promuove l'Italia, ecco le linee guida per la crescita. Intanto, a proposito di economia e a proposito dei conti pubblici, racconta La Stampa, pagina 3, che arriva il nuovo ISEE, il nuovo redditometro. Addio ai furbetti degli asili. Arriva il nuovo riccometro, anzi non il redditometro, appunto, il nuovo riccometro. Le regioni dicono sì al nuovo ISEE e potranno introdurre propri criteri. Perché c'era tra l'altro il blocco della Lombardia con la giunta Formigoni, ora è arrivato anche il sì della Lombardia, e tutti quelli, racconta La Stampa, che hanno un figlio iscritto all'asilo nido sa di cosa stiamo parlando. L'ISEE, cioè l'indicatore della situazione economica equivalente, ci sono voluti mesi di gestazione, un iter accidentato, ma il nuovo ISEE sta per diventare realtà, lo strumento che permette accedere ai principali servizi sociali, assistenza, agli sconti anche garantiti alle famiglie a basso reddito, come l'iscrizione all'università, le bollette di luce e gas, e ovviamente è cos'è la fonte di che cosa? Di furberie varie in Italia. Sta di fatto che con il vecchio sistema, per esempio, con il vecchio indicatore, pensate che dato è venuto fuori. Vi sembra credibile questo dato? il 96% dei residenti al sud, 96% quasi tutti, dichiarava di non possedere né un conto corrente e né un libretto di risparmio. Ma com'è possibile? Com'è possibile questo dato? Il 96%, secondo la vecchia versione del Riccometro. E ancora il 10% delle famiglie presentava un ISEE nullo, nullo, zero, in modo poi da accedere alle agevolazioni dei comuni come iscrizione all'asilo, eccetera. 96% di residenti al sud senza un conto corrente in banca. Entriamo in casa e controlliamo sotto i materassi. C'è il vero tesoretto dell'Italia al sud, questo almeno da secondo i dati dell'ISEE. Vabbè, a proposito di soldi, vi piacerebbe sapere i patrimoni di cui dispongono i ministri? Perché il premier Monti, ex premier Monti, aveva fatto questa scelta. Al momento, Il Sole 24 Ore con Antonello Cherchi a pagina 11 racconta, questa scelta non è stata confermata da Enrico Letta, per cui è vero, Enrico Letta ha imposto ai ministri che sono anche parlamentari di rinunciare al doppio stipendio, quindi prendendo solo lo stipendio da ministri. Ma, racconta Il Sole 24 Ore con Antonello Cherchi, appunto, non si sa nulla invece della situazione patrimoniale dei ministri, cioè che cosa hanno di beni, di proprietà. Non è stata seguita nessun componente del nuovo governo la linea inaugurata dall'ex premier Mario Monti. Inutile cercare sui siti qual è la retribuzione dei vertici dei dicasteri, ci sono le biografie, inappuntabili curricula, l'elenco delle dichiarazioni rilasciate, carrellate di foto, le interviste, ma della situazione patrimoniale nessuna traccia. L'unico che ha pubblicato tutto è il ministro degli affari europei, insomma, Mavero Milanesi, che però non ha dovuto fare molta fatica se non aggiornarla, infatti ricopriva lo stesso incarico nel governo Monti e quindi si è attenuta la stessa cosa. E pensare, racconta Il Sole, che c'è un motivo in più perché i politici rendano trasparenti i redditi passati e attuali. Dopo che Mario Monti aveva imposto la pubblicità dei guadagni, delle azioni possedute, delle auto utilizzate, degli altri incarichi rivestiti, è arrivato il decreto sulla trasparenza, il numero 33, introdotto dalla legge anticorruzione, un decreto che impone alle pubbliche amministrazioni di pubblicare online in una sezione ad hoc del sito istituzionale una serie di informazioni. Nel caso di chi riveste incarichi politici, l'articolo 14 prevede che si mettano sul web, tra l'altro, i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e le dichiarazioni dei redditi. E allora, perché, scrive Il Sole 24 Ore, tutti i siti dei ministeri per il momento restano muti? Vogliate adeguarvi a una legge dello Stato di cui fate parte e di cui siete membri del governo? Questo l'appello che posso fare io dopo l'articolo del Sole 24 Ore. Inizia oggi la quarta settimana decisiva per la riforma elettorale. Inizia anche oggi la quarta settimana decisiva per l'abolizione delle province. A proposito delle province, Le province resistono, lottano e vivono con le unghie insieme a noi e fanno anche ricorso e lo vincono contro lo Stato perché ne hanno evidentemente tutte le ragioni del caso. Prima pagina del Sole 24 Ore, la provincia fa ricorso e lo Stato deve pagare. La racconta Valeria Uva, l'abolizione delle province è ancora solo uno slogan, ma quel che è certo è che prima di abolirle il governo dovrà pagarle. Sono infatti già 5 le amministrazioni provinciali che hanno fatto ricorso, hanno ottenuto dal tribunale i decreti ingiuntivi per riavere indietro residui passivi accumulati nella tesoreria statale fin dal lontano 1996. Dunque hanno perfettamente ragione in questo caso le province. L'ultima in ordine di tempo è Teramo, che il 10 maggio scorso si è vista riconoscere un credito di 15 milioni di euro. Con questi soldi, spiega il presidente della provincia Catarra, potremo pagare imprese e far riaprire i cantieri. Nel 2012 era stata la volta di Treviso e Venezia. Treviso aveva ottenuto 24 milioni, Venezia addirittura 44 milioni, hanno vinto il primo round in tribunale anche Padova con 36 milioni, Arezzo 10 milioni. Per carità, fa sapere Il Sole, sono briciole rispetto al fatto che secondo l'Unione delle Province lo Stato dovrebbe alle stesse in totale fino a 2 miliardi di euro, ripeto, soldi che spettano alle province, residui passivi che vengono trattenuti dalla tesoreria dello Stato. Dunque le province fanno ricorso, ottengono e vincono questi soldi e soprattutto sono lì che lottano e non vengono cancellate mai. Ma ieri ancora, se non sbaglio, sempre lo stesso ministro Delrio, l'ho letto in un'intervista nel weekend, ha detto le cancelleremo in 6 mesi. Staremo a vedere. Lo sblocca debiti, guarda sud, invece è un articolo che trovate a pagina 5 del Sole 24 Ore e racconta con Gianni Trovati proprio tutti questi soldi che sono stati dati di anticipi ai comuni da parte della Cassa Depositi e Prestiti, e l'86% di questi soldi sono andati a regioni del sud. Tanto che la Lega ha un po' protestato, anche se poi parte di questi soldi, molti di questi soldi che verranno e devono essere utilizzati anche per pagare le aziende che hanno debiti con la pubblica amministrazione, ritorneranno in qualche modo al nord, perché molte delle aziende appunto creditrici sono del nord. Comunque c'è tutta la classifica dei soldi che sono stati ottenuti dalla distribuzione dei fondi. L'86% sono andati alle regioni meridionali. Che dire ancora? Beh, c'è stata una rissa verbale, quelli del Movimento 5 Stelle con Milena Gabanelli, in questo caso con la sua collaboratrice Sabrina Giannini, ancora ce l'hanno su. Ora portiamo la RAI in tribunale, minacciano alcuni del Movimento 5 Stelle, dopo che la giornalista di Report Giannini appunto è andata nel programma TV Talk e ha rilanciato le accuse che secondo alcuni del Movimento 5 Stelle sono un po' le accuse che aveva già lanciato Report con Milena Gabanelli, sono accuse non corroborate da fatti, e quindi vabbè, parte da questa minaccia: siamo stati danneggiati prima del voto e ora faremo causa, qualcuno dice a Milena Gabanelli. Staremo a vedere. C'è tutto il tema legato anche all'ILVA. Il tema legato all'ILVA, perché dopo il sequestro di moltissimi beni dell'ILVA, le dimissioni di tutti i vertici, tra l'altro c'è un interessante retroscena, racconto che Giusy Fasano fa sul Corriere della Sera, pagina 11, su Emilio Riva, 87 anni, il patron dell'ILVA, agli arresti domiciliari da luglio scorso nella sua villa di Varese, racconta, pagina 11, mi attaccano ma io i soldi li ho investiti. Lo sfogo del patron Riva: quella fabbrica era un ferro vecchio quando sono arrivato io. Ho investito una marea di denari, adesso guarda che punto siamo arrivati, cosa ho fatto di male? Siamo al maxi sequestro di 8 miliardi e 100 milioni di euro chiesto dal GIP di Taranto Patrizia Todisco. È pazzesco, commenta il patron Riva. Anche questa storia del miliardo e due a Milano è assurdo, erano soldi guadagnati all'estero, riportati in Italia in parte per essere investiti nell'ILVA. Certe volte mi sembra che sia tutto un incubo, mi dico che non ci può essere qualcuno che ci vede così malvagi. Così si sfoga, ma i racconti continuano. Repubblica, per esempio, a pagina 13, Carlo Bonini e Giuliano Foschini, un documento: i servizi segreti avvisarono Palazzo Chigi, capitali dei Riva viaggiano verso l'estero. E dunque racconta Repubblica: l'ILVA, sostengono i procuratori, ha dato in 5 anni malattie e morte ai cittadini che abitano quartieri vicino al siderurgico, e i servizi segreti, secondo Repubblica, che producono questo documento, avevano avvertito appunto, attenzione, C'è il tentativo di provare a modificare la giurisdizione dei trust cercando di mettere al sicuro i bottini. I soldi del gruppo sono quasi tutti all'estero, hanno dimostrato i PM con le indagini. Insomma, questo è il tema che continua sull'ILVA, e trovate tutto sui giornali.